Salve a tutti, sono Sandro Peroni da Salpinaz. Oggi ascolteremo tre giovani pianisti, alcuni già conosciuti, diciamo, e qualcun altro meno. Diciamo che sono la dimostrazione, insomma, di una capacità di rinnovarsi che in questi ultimi anni si sta registrando, una capacità di rinnovarsi dell'uso del pianoforte, anche proprio del concetto del piano trio, che era una forma decisamente, come dire, sfinita dalle esperienze precedenti, perché era difficile ed è tuttora comunque molto difficile riuscire a rinnovare un linguaggio, anche un timbro che riescono a proporre la normale innovazione che avviene un po' per tutti gli strumenti, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista proprio artistico della struttura dei brani e delle composizioni. Sono, cominciando dal primo, probabilmente il meno conosciuto, è un trio, quindi si chiama, se così si può dire, De Berengieren, è un gruppo fiammingo, belga, comunque di lingua fiamminga, che è guidato soprattutto, diciamo che si fa notare, il pianoforte di Fulco Otterwenger, che è sicuramente un personaggio interessante, un giovane interessante, che non è alla sua opera prima in questo lavoro, non sono alla loro opera prima, ma hanno già pubblicato intanto un paio d'anni fa un bel disco per la Clean Feed e precedentemente anche altre piccole registrazioni. Comunque in sostanza siamo agli inizi del percorso artistico di questo gruppo, che meriterebbe di essere osservato con attenzione, anche ascoltato in Italia. Peraltro l'abbiamo potuto sentire al Festival di Bolzano in quest'estate, nell'ultima stagione, che ha naturalmente registrato un consenso da parte della critica decisamente positivo. Oltre Otterwenger, Lieven van P, alla contrabbasso, e Simon Segers alla batteria. Quindi nomi non certo molto conosciuti. Ascoltiamo tre brani che danno un po', come dire, la cifra dell'utilizzo di memorie musicali le più disparate che vengono messe insieme da questo trio, il tipico trio jazz. Thank you. Questo era l'ultimo lavoro del trio De Behringeren, gruppo belga, guidato, dove perlomeno la figura prevalente è Fulco Otterwanger. È un disco uscito intitolato Dagger Out Skyscrapers ed è uscito per la SB Ban Records. Naturalmente stiamo parlando di etichette minori e si spera anche di avere una distribuzione adeguata poi di questi lavori. Altro pianista che sta emergendo come una delle voci più interessanti del pianismo attuale è Arwan Ortiz, piuttosto attivo sia come sideman che anche come leader. In questo caso l'ultimo lavoro è uscito per la Intact, etichetta piuttosto attenta alle voci dell'avanguardia, e Arwan Ortiz, a differenza di quanto si potrebbe pensare, non ha nessuna vocazione sudamericana o di musiche latine. È un pianista che si muove su un territorio di contemporaneità sia dal punto di vista classico che jazzistico. È uscito questo disco intitolato Cubanism, con tra parentesi come Cubism, e di piano solo. Ancora una volta, come il precedente, conferma una qualità compositiva e anche esecutiva di altissimo profilo. Ascoltiamo alcuni brani, tre brani presi da questo bel lavoro. Era Juan Ortiz al pianoforte, nel suo ultimo lavoro Cubanism, uscito per la Intat, che conferma appunto, come abbiamo ascoltato, la sua fantasia compositiva, la sua notevole tecnica pianistica, il suono molto bello del suo pianoforte. Il personaggio più famoso di cui parliamo oggi è pianista Matt Mitchell, un pianista che ormai è molto richiesto come sideman ed è anche protagonista da qualche tempo di diverse produzioni discografiche con la propria formazione. E, Matt Mitchell è stabile nel gruppo di Tim Bern, nel Skin Oil di Tim Bern, per ricordarne poi anche i percorsi. È un musicista che lavora un po' in tutto l'ambiente della PI Records, l'etichetta discografica di Steve Coleman e di Henry Threadgill. Quindi, insomma, fa parte della serie A, diciamo, di questo ambiente, della Downtown sempre. È uscito, se appunto per la PI Records, un nuovo progetto, un nuovo disco per una formazione piuttosto ampia, quindi semi-orchestrale, però poi i musicisti non sono sempre presenti. I nomi sono tutti di primo livello, naturalmente, oltre che Matt Mitchell, tra l'altro lo si ascolta anche al piano, all'elettronica, a strumenti elettronici vari. Poi Kate Gentile, nuovo personaggio alle percussioni, alla batteria, oltre che a Chase Smith e Dan Weiss, quindi un gruppo di percussionisti di alto livello. Poi Anna Weber al flauto o al clarinetto, John Ira Begon al sax, soprano e altri sax, e, insomma, Tishai Sorey che dirige, peraltro, in questo caso Tishai Sorey sempre più, come dire, attivo nell'ambito di una visione orchestrale, di una visione della costruzione musicale che sta diventando protagonista in questa attenzione, più che le percussioni, nelle quali è veramente maestro. Quindi molti nomi importanti. Il risultato è decisamente buono, anche se non sempre allo stesso livello di certi lavori precedenti. È impegnativo e quindi anche piuttosto ambizioso. Va premiata comunque anche proprio la volontà di superare costantemente i propri confini e cercare sempre i confini nuovi. Ascoltiamo un paio di brani presi da questo ultimo lavoro, che è intitolato A Pounding Grimace. We'll be right back. Ecco, questo era l'ultimo lavoro di Matt Mitchell, un lavoro direi piuttosto imponente, impegnativo, che si avvicina sempre di più alla musica contemporanea, diciamo, che utilizza poi i linguaggi jazzistici, ma in questo riguarda un po' tutto l'entourage di musicisti che girano intorno a questa etichetta discografica, e appunto compresi i nomi che citavo prima, come Kay Gentile, Chess Smith, Dan Weiss, eccetera. Era anche l'ultimo ascolto per oggi, vi ricordo che l'intera trasmissione, anche le indicazioni discografiche, li potete trovare nel nostro sito Radio Città Fujiko, la sezione playlist. Questo è tutto, salve, alla prossima.